perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, partiamo subito con il denunciare un increscioso episodio che si è consumato proprio pochi fa all'interno di questi studi, quando Mauro Meazza e l'ospite della prima parte del nostro programma Cristiano Dell'Oste provavano ad estromettermi da una interessante conversazione. Sono reduci dal piano superiore, quello che ospita le stanze del Sole 24 Ore. Esatto. No, vuoi ripetere la conversazione che stai facendo con Cristiano? Ma non Cristiano? È proprio di nullo interesse per gli ascoltatori. No, perché ci voleva il traduttore simultaneo per comprendermi. Ma sì, stavamo parlando un po' in cifrato di ingombri pubblicitari, temi, argomenti, cose che stiamo preparando. No, ma ti ripeti, ti abbiamo cifrato cose del tipo: c'è un 8x4 in 3 che terremo abitualmente, e lui ha risposto sì, però la l'IVA è pronta. Ecco. E quindi era un po' una cosa come Radio Londra, se vuoi. Le aquile volano basse. Speriamo che siano in pagina 3 un po' più semplici gli argomenti che affronteremo questa mattina. Ma per su i questo avrei qualche dubbio, cara Deborah. Sono un po' difficili, ma sono in realtà molto popolari. Allora, intanto è scattato l'obbligo per tutti i proprietari che affittano casa con l'affitto breve, o meglio per gli intermediari immobiliari, quindi anche per i portali online come Airbnb, di operare le ritenute del 21%, che già che da proprio da queste ore, no, si possono ritirare. Sì. questi soldi, Mauro, quindi siamo veramente sul pezzo, siamo proprio sulla giornata di, esatto, quasi in un certo senso di esordio, ma poi spiegheremo, ecco, perché ce lo spiegherà meglio Cristiano Dell'Oste. Il secondo tema invece cosa abbiamo in ballo? Tema, sempre, guarda, di mura domestica è un parliamo. Tema che torna e ritorna, ormai è ciclico. I contabilizzatori di calore, cioè quegli affari che bisogna mettere in condominio per distribuire appunto i costi del riscaldamento, adeguare i costi del riscaldamento, vabbè, insomma l'obbligo c'è, però, vabbè, ne parliamo nella seconda parte di esatto, Due di Denari. Come al solito le sanzioni sono sempre quella parte mancante in tutti i nostri ragionamenti, oppure in realtà ci sono, ma chiaramente qua non vedremo piovere multe a destra e a manca, e vedremo appunto per i condomini che non sono in regola teoricamente che cosa succede. Per tutti questi argomenti, sono due ma importanti, naturalmente potete sempre interagire con noi intanto al numero verde all'800 24 00 24, e naturalmente potete scriverci SMS o anche WhatsApp all'abituale numero 349 238 6666, oppure godervi la nostra faccia dalla diretta Facebook. Allora, per chi si lamenta che la trasmissione si inchioda sulle facce dei nostri colleghi che ci hanno preceduto, basta rinfrescare la pagina Facebook. Esatto, quindi, perché sennò continuate a vedere Alessandro Milan, Leonardo Manera, Veronica Gentili e non vedete invece Deborah Rosciani, quindi aggiornate la pagina, di solito è il tasto F5, noi siamo sempre per le informazioni di servizio. Partiamo. Dove eravamo rimasti? Allora, eravamo rimasti che si stava partendo, Mauro, perché prima che partisse questa bella accoppiata di Due di Denari, nella trasmissione precedente con Cuore Denari, con Nicoletta Carbone e anche con lo stesso Cristiano Dell'Oste, che magari facciamo salutare. Cristiano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo fatto un sacco di puntate sulla partenza della famosa tassa Airbnb, ovvero l'obbligo per tutti i proprietari che affittano casa con l'affitto breve, quindi anche per gli intermediari immobiliari Airbnb su tutti, ma ce ne sono naturalmente anche altri, di operare le ritenute del 21%, quindi pagare la cosiddetta cedolare secca su quanto percepito per questi affitti. Era tutto pronto a partire prima giugno, poi a luglio, poi sono andati in ferie e ho trovato questo grande titolone su un sacco di giornali: tregua sulla tassa Airbnb. Ma siamo partiti o no? Beh, guarda, è molto complicato. Io a questo punto mi rivolgo veramente a Cristiano Dell'Oste, laureato perché l'ha seguita, in fisco immobiliare. Laureato in fisco immobiliare e anche in tassa sull'affittologia. E allora a questo punto, Cristiano, spiegaci a che punto siamo, peraltro oggi, che è un giorno in un certo senso importante. Esatto, perché oggi è il 13 di settembre ed è praticamente il secondo giorno a partire dal quale gli intermediari, quindi le agenzie ma anche i portali telematici, sono tenuti a effettuare la ritenuta sui canoni che incassano per, diciamo così, per semplicità, per conto dei proprietari che hanno dato in locazione delle che abitazioni. Che rendono visibili i loro immobili appunto su questi portali. E come ricordava bene Mauro, questa è una scadenza che avrebbe dovuto già entrare in vigore, se andiamo a vedere quello che c'è scritto nella manovrina di primavera, nel decreto legge 50. Non è stato così, perché alla fine l'obbligo scattava troppo a ridosso della sua entrata, della sua introduzione con la norma, e in modo sia pure non ufficiale l'Agenzia delle Entrate, incontrandosi in vari tavoli tecnici con le sigle degli agenti immobiliari che sono poi chiamati ad applicare quest'obbligo, ha concesso quei 60 giorni di salvaguardia che sono previsti dallo Statuto del Contribuente. Quindi in qualche modo, ecco perché anziché cominciare, per così dire, con il primo versamento il 16 di luglio, si comincerà invece con il primo versamento il 16 di ottobre in relazione ai canoni incassati a partire dal 12 di settembre, quindi di fatto da ieri. Cioè che aveva tirato in ballo anche il famoso Statuto del Contribuente, Mauro. Beh, lo Statuto del Contribuente, che infatti tra le molte cose che prevede, peraltro voglio dire tra parentesi, è la legge forse più derogata d'Italia e della nostra storia repubblicana, però lo Statuto dice che se tu decidi una novità, un'innovazione importante come è questa, devi dare ai cittadini, ai contribuenti, il tempo di adeguarsi. Esatto. Direbbe anche che le norme fiscali non possono essere retroattive, ma anche qua, insomma, questi sono auspici, diciamo, più che previsioni. Altro tema era che anche gli agenti immobiliari avevano, come dire, accolto con un po' di perplessità tutto questo nuovo regime fiscale. Sì, ma perché, Cristiano, aiutami a ricostruire. In realtà questo nasce dal fatto che chiunque affitti casa dovrebbe, uso il condizionale, dichiarare quanto incassato e quindi sottoporre quanto incassato alla tassazione nella sua dichiarazione dei redditi. Però, poiché questo, diciamo così, non succede così spesso, perché alcuni di noi si dimenticano, può capitare, di segnalare questi importi, allora il governo ha deciso, appunto, con la manovra di primavera, quella che ci aveva richiesto l'Unione Europea, di intervenire con una sorta di sostituzione di imposta, di sostituto d'imposta, che diventa appunto l'Airbnb del caso o qualsiasi altra società. È così la ricostruzione? È così, e in particolare il punto dolente su cui ci si è concentrati e su cui interviene questa ritenuta sono le cosiddette locazioni brevi. Cosa intendiamo per locazioni brevi? Così descriviamo bene il perimetro. E sono sostanzialmente quei contratti che hanno una durata non superiore a 30 giorni, sono contratti di locazione appunto di durata non superiore a 30 giorni, per i quali non è previsto l'obbligo di registrazione. Quindi sono contratti rispetto ai quali, se io come proprietario incasso un canone, sono tenuto poi a dichiararlo nella dichiarazione dei redditi che presento l'anno successivo, e posso eventualmente anche optare per la cedolare secca andando a fare una semplice spunta in una crocetta in dichiarazione. Il punto è che, essendo locazioni brevi ed essendo io non obbligato a registrarli, sono tipologie di contratti per i quali si è sempre detto, poi qui le stime divergono molto, ma si è sempre detto che c'è un forte rischio di evasione fiscale proprio perché sono locazioni spot. Da qui l'idea del governo di dire: benissimo, quando il proprietario opera per proprio conto continuiamo a seguire le regole solite, quando però interviene un intermediario che incassa il canone, attenzione, questa è la cosa importante, che fa da tramite per il denaro, allora questo intermediario trattiene il 21% e dà al proprietario, al locatore della casa, diciamo così, la somma già al netto di questo 21% che corrisponde all'ammontare della cedolare, fermo restando che poi colui che incassa potrà anche non scegliere la cedolare e pagare la differenza dell'IRPEF se non gli conviene, se non può scegliere, quando e così via. Deve dirlo il proprietario di un'abitazione che opta per un sistema piuttosto che per un altro? È una scelta che può fare lui a livello individuale quando va a presentare la dichiarazione non dei redditi. Non è che in automatico l'intermediario gli trattiene l'importo, glielo deve comunicare? No, l'intermediario trattiene sempre il 21%, poi eventualmente sarò io che vado a fare il conguaglio l'anno prossimo. Questo perché... Quindi avviene in automatico comunque la trattenuta dell'imposta? Sì, questo perché? Perché con le locazioni brevi la cedolare si sceglie in dichiarazione dei redditi. Se invece, lo diciamo così per completezza, fosse un affitto più lungo o un affitto che per quanto breve io per qualche motivo voglio registrare, allora in quel caso devo scegliere la cedolare quando registro. Secondo te esiste già una modalità di stabilire che cosa preferiranno fare i proprietari di case che in Italia affittano secondo questi criteri? Ma io credo che nella stragrande maggioranza dei casi la cedolare secca sarà conveniente. Perché è anche più semplice. È anche più semplice. Diciamo che potrebbe porsi qualche eccezione quando o la cedolare non è consentita dalle norme, ad esempio perché l'inquilino è una società, ma questi sono casi su cui peraltro c'è anche un po' di discussione davanti ai giudici tributari, o quando il proprietario ha magari delle detrazioni molto grandi perché ha ristrutturato la casa e ha un reddito molto basso, e allora in quel caso, per ottimizzare l'uso delle detrazioni, certo, preferisce stare in IRPEF. Però parliamo di veramente una piccola minoranza di situazioni. Vogliamo sentire cosa ne pensano intermediario, Mauro? È interessante a questo punto capire come hanno gestito e accolto questa novità, che diciamo non è stata proprio, non è caduta tra gli applausi, mi sembra, esatto, di dire. Allora c'è Isabella Tulipano in collegamento, la salutiamo, è responsabile della comunicazione per Solo Affitti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Un network di 350 agenzie sul territorio che in realtà hanno fatto, come si suol dire, Mauro, di necessità virtù, e hanno preso questa occasione per istituire proprio al loro interno un team dedicato a questo mercato, quelle delle locazioni brevi. Partiranno con questa operazione che lanciamo proprio questa mattina con il progetto Solo Affitti Brevi, vero Isabella? Buongiorno. Esatto, diciamo che ci siamo resi conto, insomma, che sempre di più si cercano soluzioni in affitto, non solo per periodi diciamo lunghi, quelli che sono i classici affitti residenziali o commerciali, ma anche per brevi periodi, per diverse motivazioni. Sicuramente quella prevalente rimane quella turistica, ma anche per lavoro, per gli studenti, insomma, per andare a sostenere gli esami, o per necessità, insomma, legate a quella che può essere l'ospedale, una visita specialistica, l'assistenza di un malato, eccetera. Isabella, voi vi siete lamentati inizialmente perché temevate addirittura il rischio di una sorta di doppia tassazione, cioè di pagare due volte le imposte, ma in che senso era questo tipo di rischio per gli agenti? Sì, cioè, diciamo che l'agente spesso, proprio nel momento in cui gestisce questi affitti brevi, proprio perché che durano magari anche solo tre giorni, una settimana, ovviamente spesso riscuote un po' anche il canone da parte dell'inquilino, quindi facilmente, diciamo, in questo caso poi va a dare al proprietario, diciamo, anche con una cadenza che non è per forza quella mensile o quella legata alla durata del contratto, una parte di quello che viene riconosciuto al proprietario su cui si sono accordati, è una parte che fa parte della compensazione del lavoro, che in questo caso non è solo un lavoro di intermediazione, ma anche un lavoro proprio di gestione, di un check-in, di un check-out, di pulizia, perché tra l'altro la grande novità in questo caso è che per locazioni breve, in qualche modo, vengono riconosciute, anche se non in forma imprenditoriale, quelle che sono le case vacanze, perché la distinzione di cui abbiamo parlato tante volte anche in altre occasioni con Deborah era proprio quella di capire, insomma, la differenza tra i contratti turistici e quelli invece di strutture ricettive, quindi quelli che sono organizzati in forma imprenditoriale come bed and breakfast, eccetera, perché in questo caso si dice che va bene anche se l'immobile viene concesso insieme a quella che è la fornitura di alcuni servizi, che sono servizi minimi come la fornitura della biancheria e della pulizia, ma anche questo costituisce una novità, così come ha lasciato perplesso, quindi diciamo che le cose su cui eravamo perplessi come agenzia immobiliare sono diverse, ci lascia un po' così l'idea di poter applicare sempre la cedolare secca anche in caso di contratti di sublocazione o addirittura se è il comodatario a concedere l'immobile, quindi in affitto a pagamento. Questi sono casi che solitamente, insomma, nella tassazione ordinaria sono esclusi dall'applicazione della cedolare secca, quindi insomma queste cose ci lasciamo perplessi, anche perché appunto applico la cedolare secca, ma in realtà in sede di dichiarazione dei redditi su un reddito da sublocazione dovrei pagarlo come reddito diverso, quindi insomma i dubbi in questo momento rimangono, su alcune cose rimangono. Infatti. Intanto Mauro, io ho alcune domande su WhatsApp da parte dei nostri ascoltatori, che però invito anche ad intervenire, ancora hanno qualche minuto di tempo per farlo, all'800240024, un ascoltatore chiede: risiedo all'estero, affitto una casa di proprietà in Italia attraverso Airbnb sui proventi della quale pago regolarmente le tasse optando per la cedolare secca in dichiarazione dei redditi. Devo aspettarmi che in automatico Airbnb mi trattenga il 21% o devo fare qualcosa io? Da quello che ci hai detto, questa, Cristian, Questa è un'ottima domanda, perché ci consente di precisare che questo obbligo non riguarda soltanto le agenzie immobiliari che hanno un ufficio, una sede fisica, ma anche tutti i portali che operano a livello telematico, anche quelli per esempio per l'affitto delle case vacanze, non solo il tanto citato Airbnb. Allora, siccome alcuni di questi operatori, molti, hanno sede all'estero, c'è proprio una parte della norma della manovrina che si occupa tecnicamente di capire se si può configurare a loro carico quella che si chiama stabile organizzazione in Italia o meno. Adesso, senza andare nei dettagli, si tratta di capire se questi soggetti sono tenuti o no ad applicare la ritenuta. C'è anche la possibilità, adesso qui ci sarà un allineamento lungo, che alcuni di loro non la applichino. Allora, diciamo subito come deve comportarsi il proprietario, esatto, al di là della di scelta dei portali. Il proprietario, diciamo che quando non subisce la ritenuta e si vede accreditare al 100% il canone che aveva pattuito, non è comunque sanzionabile, perché l'obbligo della ritenuta grava sull'intermediario. Quindi il proprietario che riceve tutto il canone dovrà soltanto avere, diciamo così, la cura di andare a dichiarare questo importo nella dichiarazione dei redditi e pagarci sopra le tasse, come si faceva, diciamo, prima dell'introduzione dell'obbligo della ritenuta. Dopodiché l'ho messa applicazione della ritenuta è un problema dell'intermediario. Questo è un punto. Ecco, scusami Cristiano, ti interrompo per dire: può pagarci sopra le tasse e in dichiarazione scegliere sempre la cedolare secca. Esatto. Se e scegliendo... gli conviene, come ci hai spiegato prima. Esatto. L'altro discorso importante è che questo obbligo si riferisce, l'obbligo di ritenuta scattato appunto dal 12 di settembre, si riferisce ai canoni versati al proprietario dopo questa data, quindi non sono i canoni di settembre, sono i canoni versati da settembre, quindi potrebbero essere anche riferiti a mesi precedenti. Oppure, per assurdo, se il canone di settembre viene versato a ottobre, perché così ci si è presi l'accordo con l'intermediario, su quello la ritenuta verrà applicata nel momento in cui l'intermediario lo versa al proprietario, e l'intermediario la verserà al fisco il 16 del mese dopo, quindi il 16 di novembre. Quindi attenzione che da questo punto di vista si ragiona per cassa. Intanto hai dei messaggi, Mauro, perché io sì, ne ho altri su WhatsApp. C'è una curiosità di un ascoltatore, ci chiede: ma vale anche per le barche? Perché spesso per le barche questa... Noi saremo al Salone Nautico settimana prossima, intanto, ecco, magari in quell'ambiente potremmo chiarire anche, dubbi. Anche esatto. Lì, però Cristiano, non mi pare che questa norma abbia alcun effetto mercato degli affitti nautici. No, lì siamo nella figura, diciamo, della o locazione di beni mobili o noleggio. Qui parliamo di beni immobili, quindi di fabbricati. Invece per una casa all'estero, allora, ma il proprietario abita in Italia, quindi è un contribuente italiano? Allora, le case all'estero non sono normalmente soggette a cedolare, e in questo caso, parlando di immobili soggetti all'estero, usciamo dal campo di questa normativa. Al limite si regolerà con la voluntary disclosure prossimamente. Beh, no, se lascia poi i soldi all'estero e si dimentica, perché sempre, esatto, vedi, è la memoria che ti frega. Lo so. Si dimentica di dire al fisco che ha così un conto degli investimenti all'estero, e beh, c'è ancora per poche settimane l'opportunità della voluntary. Volevo richiamare in causa Isabella Tulipano perché questo fenomeno è anche stato un po' un fenomeno post-crisi, in certo verso, sì. Cioè molti di noi hanno scoperto l'opportunità anche di ricorrere all'affitto breve semplicemente per risparmiare, visitare una località turistica in questo modo. Voi avete dei numeri che solo, possono aiutarci? Perdi anche il lavoro, magari mai una casa grande e ne approfitti così un po' per ricavarne qualche cosa. Infatti, Isabella Tulipano, avete dei numeri che ci confermano questa sensazione, cioè con questa crescita importante negli ultimi anni? Sì, è una crescita importante dai due punti di vista: dal punto di vista dell'offerta, perché sicuramente il proprietario in questo caso riesce a mettere a reddito magari anche solo una parte del proprio immobile, perché non c'è bisogno, insomma, alcune volte di affittare l'intera casa, ma affitto anche una o due stanze. In questo caso riesco a ricavarci comunque un rendimento anche più alto rispetto a quelli che sono i rendimenti, diciamo, medi da affitto residenziale lungo. Dall'altra parte i prezzi comunque, per chi decide di aver bisogno, insomma, di prendere in affitto una casa per un certo periodo, che possono essere solo quei 3, 4, 5 giorni, una settimana, insomma, per chi va a lavorare in una città fuori, diciamo che i prezzi sono un po' più bassi rispetto a quelle alle classiche strutture, ma in questo caso diciamo che quello che muove le persone a scegliere una casa invece che l'hotel è più una ragione di sentirsi proprio a casa, quindi non è solo tanto una questione economica, ma una questione legata proprio alla comodità e al comfort che ti può offrire un appartamento con spazi comunque molto più grandi, col comfort di una cucina. Spesso insomma le case scelte sono quelle in centro che ti fanno vivere al pieno come fosse appunto un abitante di quella città, anche se solo per 3, 4 o 5 giorni, quindi diciamo che le motivazioni non sono sempre solo strettamente economiche. Allora, sono le 11:28, fra un pochino dobbiamo andare alla borsa. Rifacciamo un po', Mauro, se ritieni, un riepilogo della situazione, ammettendo che si parte, no, sì, diciamo, se a questo si è partiti, punto si parte. Nuovo regime fiscale è partito, allora, io novità... ho una stanza da affittare, decido di metterla a disposizione della collettività, appunto, inserendo un annuncio su uno di questi portali. Che cosa devo fare per essere a posto con tutto? Aiutami allora, a lanciare questo. Allora, in sostanza bisogna ricordare che su quanto si incassa anche dagli affitti brevi, su questi importi è dovuta da parte del proprietario la denuncia, la segnalazione, dichiarazione dei redditi e quindi l'assoggettamento alle imposte, all'IRPEF. Però c'è la facoltà di ricorrere alla cedolare secca. La manovra di primavera, già ricordata da Cristiano Dell'Oste, ha consentito di far svolgere questa prassi di versare le imposte alle società, ai siti, ai portali che si occupano appunto di fare da intermediari per questo. La cedolare secca conviene sempre? Sì, quasi sempre, perché si ferma al 21%, mentre spesso l'IRPEF, anche per redditi normali, diciamo non molto bassi, supera questa percentuale. Quindi conviene ricordare la cedolare secca. Cosa deve fare la società di intermediazione? Trattenere questo 21% e lo verserà nel mese successivo. Si comincia, ce l'ha ricordato Cristiano, dagli affitti corrisposti, dai canoni che sono stati pagati, insomma, dagli intermediari dal 12 settembre in avanti. Questo, diciamo, l'estremo riassunto. Poi c'è, naturalmente, ci sono sempre più cose tra cielo e terra che nella mente degli uomini. Chi vigilerà finché tutto funzioni regolarmente? Chi vigilerà, Cristiano? Vigilerà l'Agenzia delle Entrate, anche perché c'è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato che riguarda gli intermediari, che è l'obbligo di comunicare i canoni incassati, ricevuti e i contratti oggetto di, diciamo, di queste transazioni. Quindi in qualche modo l'Agenzia delle Entrate poi sarà in grado di fare un riscontro tra i contratti che sono stati stipulati e le somme che sono state correttamente versate. Bene, allora sono le 11:30, speriamo di aver chiarito gli ultimi dubbi sulla questione, nel caso così non fosse ci ritorneremo. Naturalmente ci ritorneremo, perché io non credo che sarà tutto così semplice. Salutiamo Isabella Tulipano e Cristiano Dell'Oste che ci hanno aiutato, e adesso, signore e signori, è il momento della borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Due di denari. Allora, i due di denari hanno deciso che non cambiano subito argomento, ma trattengono Cristiano Dell'Oste, perché in realtà avevamo in sospeso un paio di quesiti interessanti da parte di un paio di ascoltatori sulla questione della tassa sugli affitti a breve, brevissimo termine, per utilizzare anche un concetto dell'investimento affitti sotto finanziario. I 30 giorni, perché ci hanno scritto, un ascoltatore ci aveva anche telefonato, ma insomma riassumiamo rapidissimamente. Qui non bisogna fare confusione tra, e ce lo chiede un ascoltatore, io sono un soggetto giuridico, cioè sono un'impresa, e affitto degli appartamenti tramite questi operatori. Poi invece c'era un altro ascoltatore che diceva: io affitto più appartamenti, ne ho fatto il mio unico reddito e ricavo solo da quello, ma che devo fare? Allora, qui mi sembrava importante, e abbiamo trattenuto Cristiano Dell'Oste per farcelo riassumere, che differenza fa se il locatore chi affitta è una persona fisica oppure è invece un'impresa. Cristiano. Sì, grazie Mauro. Allora, diciamo che quando parliamo di cedolare secca parliamo di un'imposta sostitutiva che può essere scelta solo dalle persone fisiche. Quindi se il locatore è un'impresa, una società, in questo caso la ritenuta che verrà applicata dal portale telematico sarà per forza a titolo di acconto. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che l'impresa non potrà scegliere la cedolare e dovrà andare a conguaglio con le imposte che deve pagare. IRES se è una società di capitali, IRPEF se è una società di persone e così però via. Però l'intermediario comunque trattiene. L'intermediario comunque trattiene. Se invece per qualche motivo l'intermediario non dovesse trattenere perché non applica l'obbligo, perché ritiene di non doverlo applicare, qui poi vedremo cosa succederà a livello pratico, allora in questo caso l'impresa semplicemente dovrà tenere conto del fatto che ha ricevuto un affitto, diciamo, integrale senza ritenuta, un canone senza ritenuta, e andrà a tassarlo considerando tutto l'importo al lordo, per così dire. L'altro caso invece, quello della persona fisica che affitta tramite i portali più appartamenti, beh, in questo caso ricade, per così dire, nella regola generale, quindi verosimilmente subirà la ritenuta al 21% e poi in dichiarazione dei redditi valuterà se conviene applicare la cedolare e quindi chiudere il conto col fisco con il 21% oppure andare all'IRPEF. Teniamo conto del fatto che se parliamo di un soggetto che ha solo redditi di fabbricati e non può beneficiare della no tax area, che è quell'area di esenzione fiscale che è prevista per i dipendenti e i pensionati a basso reddito. Se invece parlassimo di un pensionato con un reddito molto basso e magari delle detrazioni fiscali, ecco che allora cadiamo nel caso in cui potrebbe non avere convenienza, certo, a scegliere la cedolare e andare in però IRPEF. Diciamo che l'unico limite che è imposto in maniera chiara è quello della durata breve della locazione, no? Da quel, sì, punto di vista, per applicare questo nuovo regime fiscale. Ma dal non punto ha, di vista della ritenuta, sì, certo, se la locazione è lunga resta la possibilità di fare la cedolare, ma non scatta, diciamo, tutta questa normativa di, certo, cui abbiamo parlato fino adesso. Se ne vuoi andare o no, oppure vuoi ancora rimanere qua? Veramente me l'avevate chiesto voi, comunque ora vi lascio ai contabilizzatori. Grazie. Grazie, anche se sappiamo che anche su quello sai, ma noi oggi spremiamo il nostro prossimo ospite. Cold. Allora, caro Mauro, in realtà anche qui sarebbe stata necessaria la sigletta dove eravamo rimasti, perché noi eravamo rimasti anche in questo caso in piena estate, perché tutto arriva sempre nel bel mezzo delle vacanze, no? Già per generare ulteriore confusione. E sì. Eravamo rimasti al 30 giugno, che era la data ultima per, come dire, consentire con serenità ai condomini di adeguarsi a questa normativa, appunto, di dotarsi di contabilizzatori per appunto conteggiare quanto riscaldamento, quanto refrigeramento di questi edifici, anche edifici polifunzionali, parla la norma, appunto quanto spendono in questo. Eravamo stati anche molto perentori, se non mi ricordo male, nelle ultime puntate, perché avevamo detto attenzione per tutti quelli che non si adeguano, salvo proroghe, perché qua la parola magica salta sempre fuori, diventeranno operative delle sanzioni. E quindi secondo te sarà... Secondo me sarà arriva un'altra proroga. La corsa però all'accaparramento dei contabilizzatori? Allora, questo abbiamo visto che c'è stata parecchia confusione. Noi abbiamo ricevuto anche molte domande, le continuiamo a ricevere, specialmente sull'esperto Lunga vita risponde. L'esperto risponde. Sull'esperto, esatto, risponde, che è appunto questa rubrica che noi pubblichiamo tutti i lunedì. E il tema dei contabilizzatori di calore è, scusate il pessimo gioco di parole, molto caldo, nel senso che ci continuano a chiedere sia sull'efficacia, la temporalità della norma, l'applicazione temporale della norma, ma anche proprio sull'applicazione concreta, perché come sempre poi non è facile, un condomino non è d'accordo, bisogna farlo obbligatoriamente, esatto, qua in quanti bisogna votare, dobbiamo votarlo in assemblea, siamo obbligati a farlo, punto e basta. E se non lo facciamo che succede? Esattamente, ma allora come puoi sentire ci sono una quantità di domande, di cose in sospeso, la maggiore naturalmente è ci sarà un'altra proroga, ma quella la diciamo subito che non lo sappiamo ancora. Ora, ma tutte le altre invece le risposte ce le dà Eugenio Correale, avvocato, direttore del centro studi di Anaci Provinciale. Buongiorno avvocato Correale. Buongiorno, buondì. Allora, a che punto siamo, chiedeva Deborah speranzosa, a che punto infatti siamo? Siamo obbligati a questi contabilizzatori o no? Assolutamente sì. Io direi che lo saremmo anche nell'eventualità di una qualche proroga, peraltro non eccessivamente probabile. Chi voglia guardare i prossimi mesi può immaginare che vi sia la proroga, che non vi sia la proroga, comunque i condomini hanno tutto l'interesse e interessi economici abbastanza robusti per adeguarsi alla normativa, per superare una fase di incertezza che ormai dura da più di 10 anni. È molto probabile che saranno le amministrazioni, soprattutto le regioni, gli enti di controllo a giocare un ruolo fondamentale in una certa duttilità nell'intervenire. Per loro sarà facile essere molto duttili e anche molto pragmatici, perché in realtà la possibilità di intervenire davvero per andare a verificare cosa hanno fatto tutti i condomini e come si comportano i condomini non ce l'hanno. Quindi ci sarà, come dire, magari non una proroga, ma una applicazione graduale di un sistema di controllo che è tutt'altro che messo, certo, a punto. Ma avvocato Correale, quale tipo di condominio in particolar modo deve adeguarsi a queste nuove disposizioni? Che caratteristiche deve avere? Perché mi pare che riguardi in particolar modo quegli edifici dove ci sia un impianto di riscaldamento centralizzato. Sì, deve esserci un impianto di riscaldamento centralizzato, perché la normativa riguarda la distribuzione delle spese tra più persone, quindi occorre che vi sia un impianto pluriutenza. Si discute abbastanza se sia necessario che sia un condominio oppure se l'obbligo vi sia anche in una casa che è di proprietà esclusiva ma data in locazione a più inquilini, perché la normativa non è molto chiara, ma pare abbastanza evidente che quel che interessa al legislatore è che l'utente abbia una manopolina da manovrare per risparmiare un po'. Infatti, questo... avvocato, la interrompo per dire che su Twitter e su Facebook abbiamo messo una foto di queste famigerate manopoline, così che anche chi ancora non si fosse adeguato può vedere di cosa si tratta. È una manopola di poi di fianco al termosifone. Alla fine è una discussione molto ampia. Noi l'abbiamo messa da un sacco di l'oggettino, tempo. L'oggettino. Il mio condominio banale. È molto virtuoso. Vabbè, il tuo condominio è un condominio ovviamente molto più avanti. Mi scusi, avvocato, l'ho interrotta. Prego. Ma va bene quello che lei dice, perché tutto sommato mi pare di capire che la pensiamo nella maniera più assoluta. Identica. Non si tratta di grandi cose, la contabilizzazione ha voluto dire per tempo una rivoluzione culturale, non ripartisce per millesimi di riscaldamento, per millesimi virtuali, ma ripartisce in base ai consumi, ma poi al concreto le opere non è che siano eccessive, sì, invasive, diciamo, della casa. Anche. Diciamo che il condomino non percepisce forse la parte più massiccia e anche più costosa, che è qualche intervento alla centrale termica, perché comunque il sistema di funzionamento e di distribuzione cambia, per cui occorrono delle pompe particolari, occorre evitare che l'impianto diventi rumoroso e quindi veda far qualcosa nella caldaia, diciamo, laddove il condominio non vede. All'interno delle abitazioni sono messi dei misuratori e delle valvoline assolutamente quelli accettabili. Quindi, diciamo, sono anche spese sostenibili per le famiglie che devono sostenerle, per l'appunto. A me i miei amici amministratori, e penso di averne molti, mi spiegano che si tratta di andare dai 60 ai 140 euro a seconda delle situazioni per ogni valvolina. Benissimo, allora abbiamo dato anche un ordine di grandezza. Noi, come sa, avvocato, noi adesso ci dobbiamo fermare un attimo per parlare di viabilità, dopo lo lancio come si confà, così faccio anche una rima, però volevo ricordare che poi nella seconda parte affrontiamo il tema molto discusso e molto richiesto anche dai lettori dell'Esperto Risponde del Sole 24 Ore delle sanzioni, perché tutti hanno il timore di queste sanzioni, ma per ora invece... Traffico! Faircam Air & Ocean. Spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. 57esimo Salone Nautico. Dal 21 al 26 settembre a Genova. Due di denari. Siamo noi, condomini del mondo. Siamo noi. Pensa che mercato ha quello dei contabilizzatori e del meccanismo lì che... Il contabilizzatore di calore. Di calore, esatto, il televento. Ne stiamo parlando. Avete qualcosa da dirci in questa ultima parte di Due di Denari? 349-238-6666 per i vostri sms o whatsapp, ma potete anche chiamarci se siete molto rapidi. Sì, ce la fanno all'800-24-0024. Su whatsapp c'è anche un ascoltatore, un'ascoltatrice, anche Stefania da Brescia, che in realtà affitta l'appartamento in cui abita, per cui chiede quali sono i suoi doveri in questo senso, nel caso in cui tutto il condominio appunto si sia adeguato, se arriverà in termini di spese. Ma no, perché lei paga praticamente l'affitto, che è già comprensivo anche del forfè del riscaldamento, evidentemente è un adempimento che fa capo al proprietario, di cui lei forse non deve interessarsi, non sappiamo. Avvocato Correale. Chiediamolo. Sì, assolutamente così. L'inquilino non ha alcun onere, l'unico obbligo che può avere è quello di consentire l'accesso al suo appartamento per l'installazione della valvolina, ma null'altro. Ecco, ma i condomini, per fare questo passaggio ai contabilizzatori, bisogna che ci sia una maggioranza assoluta, totale, relativa? Come funziona la delibera, la decisione del condominio? La risposta sarebbe meno facile di quanto non sembri. Stiamo sul semplice, 500 millesimi. Okay. Questa è la delibera che basta, è un obbligo di legge, per cui in realtà occorre che l'amministratore, come dire, inizi proponendo la contabilizzazione e soprattutto proponendo un progetto. Il progetto poi va elaborato da un tecnico e quindi l'assemblea con 500 millesimi finisce per approvare la contabilizzazione. Mm-hmm. Se un condomino non fa entrare in casa e non fa disporre appunto l'applicazione della valvolina, avvocato Correale, gli altri condomini possono arrabbiarsi, perché a quel punto credo che non possa mettersi in moto tutto l'impianto? Beh, non proprio, diciamo questo. Se un condomino non consente l'accesso, intanto si mette nelle condizioni di dover pagare una multa tra i 500 e i 2500 euro. Ah, ecco. E questa già è una cosa bella. Il gestore dell'impianto può fare la cosa più banale del mondo, fare una segnalazione sollecitando e segnalando la situazione. Per quello che riguarda il rapporto tra inadempiente e condominio, la fantasia dei giudici è arrivata ad una soluzione molto simpatica, perché dice: visto che tu non consenti di contabilizzare, facciamo così, facciamo finta che tu abbia consumato il massimo, e quindi è come se il condomino ricevesse un'altra sanzione: al posto di pagare in base ai consumi, paga il massimo dei consumi registrabili. Dal punto di vista giudiziario, dell'avvocato che interviene, qual è la strada? Quella di chiedere un provvedimento dal giudice in via d'urgenza, e quindi chiedere un ordine al condomino di consentire l'accesso per immettere la valvolina. Devo dire che nella mia esperienza ci sono stati episodi. Dei miei colleghi, il Centro Studi Anaci di Milano e della Lombardia è costituito di tanti tecnici e tanti avvocati, qualche episodio c'è stato, ma direi davvero niente di rilevante. Allora, vuoi sentire un ascoltatore? Vuoi parlare della relazione esimente oppure vuoi puntualizzare qualcos'altro sulle sanzioni, visto che avevi lanciato questo tema prima della pausa? Sulle sanzioni già ci ha segnalato l'avvocato. Voglio dire una cosa a favore una volta tanto, cioè tutto questo, non dobbiamo dimenticarci, nasce per pagare quello che si consuma, che poi è la grande novità, perché una dei motivi di lite nelle assemblee di condominio è sempre: la signora dell'ultimo piano vuole il riscaldamento troppo alto, io sto al primo e muoio di caldo, e così via. Quindi questi contabilizzatori consentono di non solo di graduare la temperatura all'interno dell'appartamento, ma soprattutto di graduare la spesa. Di rendere efficiente la distribuzione del calore appunto in tutto un edificio. Ed è un problema importante questo, perché soprattutto nelle città, laddove ci sono ancora edifici vecchi, il nostro è un patrimonio immobiliare particolarmente datato, questo è un problema molto sentito in città, soprattutto come Milano ed altre. Tra l'altro, ci può essere anche qualcuno che dice: no, secondo me con la valvolina non risparmiamo un bel niente, per cui è qua che io voglio tirare in ballo la questione della relazione esimente, Mauro, perché è un termine, come sempre, di quelli simpatici che utilizzate voi nel vostro magico mondo di norme e tributi lì sopra al sole 24 ore. Però in realtà c'è un tecnico che può venire a dire: no, guarda, queste valvoline in questo edificio non servono a nulla, perché tanto non produrranno nessun beneficio, né di carattere ambientale né a livello di portafoglio appunto per i condomini, e quindi si può evitare di fare questo lavoro appunto nel condominio. Avvocato Correale. Sì, è assolutamente così. Previsto una relazione da parte di un tecnico abilitato, può far presente che l'installazione della contabilizzazione non sia conveniente, non sia possibile, quindi ci sono delle situazioni nelle quali l'obbligo viene meno. Io vorrei far notare comunque che la contabilizzazione vuol dire solo in parte pagare in base ai consumi. La contabilizzazione vuol dire pagare in base ai consumi per una quota intorno al 60-70%, per un'altra quota si paga un consumo involontario, perché è evidente che l'impianto comunque consuma per il solo fatto di essere acceso ed avviato, anche se tutti i condomini per avventura mettessero la valvolina sullo zero e quindi non consumassero nulla. E in questo la contabilizzazione deve abituarci a ragionare in termini un po' particolari, soprattutto nelle case di vacanza o nelle case di montagna. Occorre pensare che andare là e utilizzare il riscaldamento sotto Natale per pochi giorni potrebbe anche essere abbastanza costoso, perché quei pochi giorni vanno ad incidere su tutti i consumi e poi vengono ulteriormente incrementati per effetto della quota fissa. La contabilizzazione è un mondo abbastanza virtuoso, molto migliorato rispetto all'inizio, però occorre abituarsi a queste nuove regole e a questi nuovi sistemi per utilizzare l'impianto tecnico. Certo. Allora, vuoi sentire l'ascoltatore? Sentiamo Francesco da Brescia, che abbiamo in linea. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Ci faccia la domanda in modo telegrafico. Sì, io ho venduto la casa come nuda proprietà ad un signore. Sì. Questo signore da 10 anni a questa parte non vuol pagare nient'altro che le spese straordinarie, questa è la legge. Però non paga per esempio le generali, ad esempio si rifiuta. Il 50% dell'amministratore lui non lo paga, oppure le assicurazioni dell'immobile. Io sono... E quindi anche le termovalvole. Comprese i contabilizzatori di calore. Allora, sentiamo Avvocato Correale. Mi pare che non ci sia altro modo che ricorrere all'avvocato, appunto. Sì, e per una volta ha ragione l'assente. Ha ragione, cioè, il nudo proprietario che chiede di pagare non tanto le spese straordinarie, quanto quelle spese che sono esattamente conservative. Sì. Noi siamo abituati all'inquilino, alla locazione. Nella locazione le spese straordinarie le paga il proprietario, le spese ordinarie l'inquilino, più sì. o meno. E nell'usufrutto e nella nuda proprietà no. Le spese che sono a carico del nudo proprietario sono quelle, mi perdoni, devo farlo il numero, sì. previste dall'articolo 1005, che sono le spese che servono per sostituire un intero impianto, per conservare l'edificio che altrimenti crolla. Diciamo che l'usufrutto tendenzialmente dura moltissimi anni e quindi la distribuzione prevista dal codice è quello che si proietta sull'eternità va al nudo proprietario, quello che si proietta nella gestione attuale o nei prossimi anni rimane in carico a chi ha l'usufrutto, che verosimilmente se ne avvantaggerà. Avvocato, possiamo mettere i contabilizzatori a usufruire dello sconto fiscale, della detrazione? Molto certo, bene, certo. Questo è confortante. Esatto, risposta secca. Vediamo se la sintesi è la stessa per la prossima domanda. Ultima, molto veloce, avvocato. Se in qualche condominio l'amministratore si fosse dimenticato di indire un'assemblea per far fare questi lavori, non è mai possibile che un amministratore... L'amministratore avrebbe violato le regole più perché qualche ascoltatore ce lo chiede, pare che si sia stato dato l'incarico ad un amministratore ma questo non ha provveduto e quindi Rita segnala questa situazione. La invitiamo a scriverci a duedidenari@radio24.it. Sì, Peter, chiudiamo, guarda come perentorio, oggi Peter è cattivissimo, ma è tremendo, agitato. Guarda, è agitato e sgrida, so. Ci ha sgridato tantissimo durante tutta la trasmissione. Vuole sentire il giornale radio, non ne può più, freme proprio. E anche gli aggiornamenti dalla borsa durante esatto. il giornale radio, che sarà compito tuo. Può darsi, grazie, a domani.